Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Siete in piedi o seduti? Io sono seduta, in questa posizione passo la maggior parte della mia giornata. E voi? Provate a pensarci. Intanto io saluto il dottor Gianluca Melegatti, che è qua in studio con me, seduto per l'appunto anche lui. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Medico sportivo e primario fisiatra della riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e responsabile dello staff medico nazionale RAGMI. Dottor Melegatti, il modo in cui stiamo seduti condiziona sicuramente il nostro benessere. Quante volte alzandoci dalla sedia ci sentiamo arrugginiti, doloranti, con la schiena a pezzi? Molti mettono proprio le mani, no, sulla schiena. Abbiamo proprio, facciamo un po' fatica a rimetterci in piedi. Come mai? Ma perché la schiena è un organo molto suscettibile di una postura scorretta, e quindi dobbiamo fare molta attenzione a come ci sediamo e soprattutto a quanto ci sediamo. Poi lo vedremo. E soprattutto a come stiamo seduti. Naturalmente. Se teniamo le gambe incrociate, certo. Se teniamo una gamba sotto il sedere, naturalmente. Anche come stiamo in piedi naturalmente condiziona il nostro benessere. Ma tornando alla posizione seduta, a rimetterci sembrerebbe non essere solo la schiena ma anche il lato B, che cambia forma e dimensione. Secondo uno studio compiuto dall'Università di Tel Aviv, più tempo si sta seduti e più il lato B tende a lievitare. La ricerca, firmata dal dottor Emmett Geffen e pubblicata sull'American Journal of Psychology, sostiene che la pressione esercitata sui glutei produce fino al 50% di grasso in più. Secondo i ricercatori, le cellule preadipociti, che sono precursori delle cellule grasse, per effetto del carico meccanico a cui sono esposte, si trasformano in cellule adipose e tendono a produrre ancora più grasso. Un ringraziamento particolare a Dario Ceccarelli, che è diventato per oggi naturalmente il nostro speaker. Abbiamo Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica. Io sono già preoccupata perché i miei preadipociti si stanno trasformando, anzi forse si sono già trasformati, è finita. Saluto subito il professor Saverio Cinti, che è ricercatore esperto del tessuto adiposo e professore all'Università di Ancona. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma si dice, se stai troppo seduto ti viene il sedere piatto, a forma di sedia. Ma questi adipociti? Ma guardi, innanzitutto... Ci preoccupiamo? Bisogna dire che questa è una ricerca fatta sulle cellule in vitro, per cui la condizione è in vivo, cioè naturale, può essere completamente diversa. Quindi non bisogna prendere così delle deduzioni troppo immediate. E un aspetto particolare riguarda il fatto che eventualmente, se questo fosse trasportabile alla situazione reale, si assisterebbe semmai a un aumento di grandezza delle cellule. Che non ha niente a che fare con la dimensione del sedere, però. Eh sì, certo, la dimensione delle cellule poi si riflette sulla dimensione di tutto il tessuto adiposo, ma la cosa che a me pare eventualmente più interessante è il fatto che c'è una relazione diretta, sì, tra la dimensione delle cellule e la loro morte. In altre parole, le cellule adipose sono come dei palloncini, sì, che si possono gonfiare fino a un certo punto e poi, diciamo così, scoppiano, quindi muoiono, e questo crea un'infiammazione. La cellulite. Quindi, esatto, questo può essere, diciamo, una possibilità che si verifica. Quindi noi possiamo dire che stare seduti può aumentare il rischio di avere le culotte de cheval, così si chiamano, no? Dottore, professore? Sì, esatto, cioè soprattutto quel fenomeno di infiammazione che poi porta a quelle rientranze esteticamente non piacevoli che sono conosciute sotto il termine di cellulite. Professore, grazie, mi ha un po' sollevato, perché questi preadipociti mi stavano un po' preoccupando. Grazie al professor Cinti per essere stato con noi. Ma uomo avvisato, mezzo salvato, per chi sta molto spiaggiato, ecco un consiglio per mantenere il gluteo ben allenato, e ce lo dà Benedetta Spada, insegnante di yoga. Ciao Benedetta, bentornata. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. La tecnica migliore innanzitutto è imparare a respirare. Ah, e perché il lato B ci guadagna? Sì, perché in realtà noi pensiamo di respirare solo con alcune parti del corpo, ma respiriamo con tutto il corpo, anche con il lato B, se ci mettiamo in ascolto. Ma un esercizio facilissimo da ripetere più volte al giorno, soprattutto per chi passa molte ore seduto davanti al computer, è quello di inspirare e contrarre i glutei e tutta la muscolatura, stringendo le mani a pugno, quindi un po' caricando questo esercizio, e poi espirare e smollare, lasciare andare completamente. Questo farlo sia con entrambi i glutei contemporaneamente, che prima con una parte e poi con l'altra, sempre accompagnandolo con l'inspiro e l'espiro. E questo esercizio, ripetuto più volte durante la giornata, richiede pochi secondi, pochi minuti, aiuta anche a prevenire l'accumulo di grassi, quindi la cellulite. Fantastico. Grazie a Benedetta Spada, che ricordo sarà protagonista di un evento a Lecce, vero? Esatto, domenica. Esatto, domenica, il 18. Una giornata tutta per prendersi cura di sé. Esatto, vi aspetto. Va bene, arriveremo con il nostro lato B più allenato. Grazie a Benedetta Spada. Grazie a voi. C'ho un mal di schiena che non mi fa dormire. Da ieri sera ce l'ho, voglio morire. Dottor Melegatti, ma sedere a parte, la nostra schiena si riposa di più quando siamo seduti o in piedi? E soprattutto, come facciamo a prendere consapevolezza della nostra postura? Ma intanto dobbiamo dire che la stazione seduta è un'acquisizione relativamente recente della nostra specie, perché non siamo nati per stare seduti, siamo nati per cambiare spesso posizione, ma soprattutto siamo nati per camminare. Quindi la soluzione ideale per la nostra schiena è quella di alternare la stazione seduta e la stazione in piedi, possibilmente camminando. È chiaro che la nostra schiena risente moltissimo dalla posizione che noi manteniamo stando seduti o anche stando in piedi fermi. Pensiamo alla moltitudine di persone che lavorano sedute. C'è modo e modo di lavorare seduti. Naturalmente pensiamo a uno tecnico di precisione, a un orologiaio che rimane ricurvo sul suo piccolo oggetto e quindi con un atteggiamento del capo e delle spalle in flessione, e questo può provocare problemi muscolari, quindi tensioni a livello cervicale, a livello dorsale. Viceversa pensiamo a una persona che fa un lavoro pesante, ecco, questo è in piedi e quindi è abituato a spostare dei pesi, lo dovrà fare con molta attenzione usando accorgimenti tali da evitare al massimo i sovraccarichi. E noi oggi potremmo raccontare ai nostri ascoltatori come si sta seduti. Certamente. I segnali che non dobbiamo trascurare, i segnali di malessere, vogliamo cercare di prevenire il mal di schiena, che è un disturbo molto frequente. Secondo i dati, un italiano su 5 soffre di mal di schiena, ma arriva a consultare il medico quando è tardi. Quindi muoviamoci per tempo chiamando l'800 24 00 24, come ha fatto Michele, che ci chiama da Pesaro. Buongiorno Michele, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti. Lei sta più seduto o più in piedi? Voglio fare una specie di sondaggio. Io purtroppo sto molto seduto, molto, gran parte della mia giornata, si parla quasi di 10 ore al giorno. Cosa fa? Io sono un musicista professionista, contrabbassista, e suono su uno sgabello che purtroppo nell'ultimo periodo mi fa vedere le stelle, perché negli ultimi 6 mesi ho iniziato ad avere dei problemi alla schiena, dei forti dolori al gluteo, sinistro soprattutto, e sento la schiena tutta indolenzita. La situazione si sta aggravando. Io purtroppo non so suonare in piedi, perché dal punto di vista tecnico musicale ho sempre suonato seduto, sì, e non ho mai avuto problematiche di schiena, e quindi volevo chiedere un po' di informazioni su che cosa potevo fare, Perché c'è questo sgabello, certo, non ha l'appoggio. Possiamo agire su... è difficile naturalmente pensare di cambiare drasticamente posizione in un musicista che suona il contrabbasso e quindi che ha bisogno dello sgabello. Dobbiamo giocare sull'altezza dello sgabello, e poi dobbiamo anche occuparci della nostra schiena lontano dalla musica, quindi effettuare degli esercizi preventivi che permettano ai muscoli della nostra schiena di rimanere flessibili e forti. Per cui io consiglio a Michele anche di dedicare 2-3 ore alla settimana di esercizi, magari guidati da personale esperto, per mantenere, come dicevo, una miglior forza e flessibilità muscolare. Allora, proviamo a seguire in diretta la nostra schiena durante la giornata e capire come possiamo mettere la nostra schiena nella condizione di stare bene. Dato che spesso il buongiorno si vede dal mattino, come vi siete svegliati oggi? Come stava la vostra schiena? Domanda più importante, come dormite? A pancia in su o a pancia in giù o di fianco? Intanto saluto il professor Stefano Negrini, professore all'Università di Brescia, alla Fondazione Dognocchi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Può sembrare strano, però spesso il mal di testa viene a letto. Non è così strano, perché ci sono due meccanismi che avvengono. Uno, certamente quello relativo alla posizione del sonno, e quindi anche al cuscino e all'altezza del cuscino. L'altro è il fatto, e questo è poco noto al grande pubblico, ma è il fatto che durante la notte la colonna vertebrale, tutta la colonna vertebrale, il collo fa parte della colonna vertebrale, tende ad andare in tensione, perché i dischi intervertebrali, che sono quegli ammortizzatori che sono interposti tra una vertebra e l'altra, e che sono delle specie di spugne, durante la notte tendono a riempirsi di acqua, tendono a riempirsi di soluti, e questo fa sì che si alzino leggermente, tant'è vero che al mattino quando ci alziamo siamo alti un paio di centimetri di più rispetto alla sera quando siamo andati a dormire, e questo meccanismo manda un po' in tensione tutte le strutture, quindi problemi che possono essere sorti durante il giorno si rivelano poi a volte durante la notte. Quindi andiamo con ordine, diamo i giusti suggerimenti per riuscire ad avere un sonno riposante, sano, rispettoso della nostra schiena. C'è una posizione ideale, a pancia in su, a pancia in giù, di fianco? Ma guardi, la posizione ideale in realtà non esiste, nel senso che ognuno di noi dorme muovendosi, come il nostro corpo ha bisogno più del movimento che della postura fissa, e quindi durante la notte cambiamo spesso posizione. Tant'è vero che una volta si è persino cercato di far adottare delle posizioni migliori, teoricamente migliori, alle persone attraverso forme quasi di tortura, cioè chi dormiva di fianco mettendogli delle cose che facessero male sulla spalla quando era girato di fianco, in modo da obbligarlo a dormire a pancia in su. Sono cose che sono sempre fallite, non hanno mai portato dei grossi risultati, per cui più che la posizione teorica migliore è importante poi la struttura su cui si dorme, l'altezza del cuscino, e sapere anche un po' qual è la posizione preferita durante il sonno, perché per esempio se uno tendenzialmente dorme a pancia in giù, il cuscino quasi non gli serve, ma se dorme sul fianco tendenzialmente ha bisogno di un cuscino che riempia lo spazio della spalla, e quindi può essere un cuscino che è certamente diverso, quello che può andare bene per me o quello che può andare bene per lei, Nicoletta, cioè solo perché siamo maschi e femmine abbiamo spalle di spessore diverse, quindi anche qui abbiamo bisogno di cuscini di dimensioni diverse, quindi diciamo va più adattato la struttura su cui si dorme alla posizione che tendenzialmente uno preferisce più che il contrario. E per quanto riguarda il materasso, professore? Per quanto riguarda il materasso cosiddetto ortopedico, che era il materasso rigido che si usava una volta, aveva certamente un senso quando si usava le reti che tendevano a sfondarsi, e quindi ci voleva un materasso un pochettino più rigido, mentre oggi dove ci sono le doghe, che quindi tengono molto bene, il materasso deve accogliere il corpo e non respingerlo, per cui diciamo deve potersi lasciare andare leggermente, e da quel punto di vista è più importante una buona manutenzione di un materasso di media densità, che poi sia a molle o che sia di lattice, tutto dipende da, diciamo, escluso il primo prezzo, che sono quelli che, sì, che spesso veramente sono di scarsa qualità, un materasso di media qualità oggi che non sia troppo rigido va più che bene. Quindi né duro, come Silvia mi scrive, duro o morbido il materasso? né duro né morbido, una media densità e una media va provato, perché poi anche qua una persona che pesa 120 kg ha bisogno di una densità del materasso completamente diversa da una persona che pesa 60. Questo per esempio crea problemi tra marito e moglie a volte, nel senso che il materasso... Letti separati che... allora, se abbiamo pesi diversi, letti separati. Potrebbe essere una soluzione o due materassi, ma poi questo crea un problema con un buco in mezzo che, sì, che diciamo non dobbiamo separare le coppie, quindi evitiamo questi... Professor Negrini, vorrei invitare i nostri ascoltatori anche a fare un saltino sul sito di ISICO, Istituto Scientifico della Colonna Vertebrale, di cui lei è direttore scientifico. Esatto, sì, www.isico.it, si trovano tanti suggerimenti su questi aspetti. Anche sul cuscino. Sul cuscino è difficile, io ho sempre grande difficoltà sul cuscino, perché se molle mi va giù la testa, se troppo rigido non dormo bene, lo piego. Mi dia due indicazioni per il cuscino, perché... Allora, ripeto, dipende dalla posizione in cui lei dorme. Se dorme a pancia in alto, il cuscino deve accogliere la testa e non respingerla. La testa non deve essere spinta in flessione. Sì. L'assenza del cuscino invece manda in iperestensione, che dà altrettanto fastidio. Sì. Quindi tendenzialmente un cuscino un pochettino morbido per chi dorme a pancia in alto, che gli consente di appoggiare la testa di lato, per cui si gonfi di lato e rimanga abbastanza accogliente invece al centro dove si appoggia la testa, può andare più che bene. Per chi dorme preferenzialmente sul fianco invece il cuscino deve essere un pochettino più alto, perché anche qua bisogna mantenere l'allineamento del capo, quindi il capo non deve cadere verso il materasso, ma non deve nemmeno essere respinto verso l'alto, perché poi questa posizione comunque dà fastidio. Proveremo, grazie professor Negrini. Vado Prego. Ad Ancona, che c'è Filippo, buongiorno. Buongiorno, Filippo. Guardi, io in famiglia ho qualche problema alla schiena, perché mio padre ha sofferto parecchio di mal di schiena, rimanendo a letto anche a volte per una settimana di fila. E comincio a soffrire, nonostante sia diciamo abbastanza giovane, 26 anni. Ah, 26 di, anni. Di mal di schiena, diciamo, è sempre un po' dolorante. Faccio anche un po' sport, faccio due volte a settimana Muay Thai. Non ho capito cosa fa, scusi, cosa fa? Thai box. Ah, Thai box. Però ecco, la schiena si lamenta quasi, sì. Ecco, c'è una sorta di familiarità, dottor Melegatti. Sì, innanzitutto bisognerebbe capire che tipo di mal di schiena affligge Filippo, bisognerebbe fare una diagnosi, perché il mal di schiena è un mare magno che è pieno di, naturalmente, di situazioni e di patologie. Bisognerebbe capire se questo mal di schiena proviene da una tensione muscolare o se è invece un problema legato a una disfunzione dei dischi intervertebrali. Bisogna capire se è un mal di schiena che prevalentemente si manifesta a riposo o quando Filippo fa sport. Allora, la prima cosa da fare è fare una diagnosi e quindi affidarsi, non perdere troppo tempo, perché poi il mal di schiena si cronicizza e diventa difficile curarlo, quindi non perdere troppo tempo, affidarsi a una persona esperta, quindi a un esperto del settore, un medico, un fisiatra, un ortopedico, che possa fare diagnosi e possa dare dei consigli precisi sulla base della patologia che in quel momento è stata riconosciuta. Quindi già una buona indicazione, se insorge a riposo o durante il movimento, e soprattutto anche il punto della schiena che ci sembra più dolente, se la parte alta, se la parte centrale, quella a proposito di lato B, subito sopra il lato B, 800 24 00 24. Vogliamo sentire i mercati, il meteo. A proposito, ci sono dei mal di schiena che arrivano proprio quando cambia il tempo. Ecco, e noi ci ritroviamo qui soprattutto anche con i vostri consigli. Essere e benessere. In piedi o seduti, come passate la maggior parte della vostra giornata? Per il momento ho cercato di lanciare questa sorta di sondaggio, al momento siamo quasi tutti seduti, dottor Melegatti, ma noi vorremmo capire come la posizione che assumiamo durante la giornata influenza il nostro benessere, in particolare quello della schiena, che a volte si lamenta, a volte si lamenta dopo che l'abbiamo tenuta ferma a lungo, certo. A volte invece si lamenta in seguito a un'attività sportiva. 3 mesi dopo, Fantozzi, di fronte all'immagine dell'inizio di un tragico declino fisico, decise di dimagrire. Dopo 90 anni di vita sedentaria, la sua parola d'ordine fu: moto, moto, dovrei fare del moto. Porca miseria, guarda come mi sono ridotto. Non entro più nei vestiti, non entro. Sì, ma con cautela, Ugo, con prudenza, alla tua età. Ma che prudenza, ma che età? Tina! Eh? Il colpo della strega! Oh, santo cielo, Ughino, ho appena finito di dirtelo. Oddio, sono bloccato. Dove ti fa male? La schiena. Qui? Sì, hai. Santo di Ughino, lo sport non lo puoi più fare. E poi a me piace anche così. Anche voi conoscete un Ughino, eh? Sì. O siete voi l'Ughino, perché siamo tutti un po' fantozzi. Dottor Melegatti, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Tante volte proprio in seguito all'attività sportiva che la nostra schiena va a pezzi. Eppure voi continuate a dirci muovetevi, muovetevi, certo. Muovetevi. Non vi sentite un po' responsabili? Pa, un po' sì, devo dirti. Ma mi fa venire in mente questo discorso il classico weekend warrior, il guerriero del weekend, cioè quello che passa tutta la settimana al lavoro, magari lavorando 10-12 ore seduto, sì, o in macchina, e poi si scatena al fine settimana perché vuole recuperare, quindi per mantenere una forma accettabile si lancia in attività sportive assolutamente controindicate per la sua situazione in generale. Magari è una persona sovrappeso, magari è una persona tra i 40 e i 50 anni, e sono proprio quelli più accaniti. E allora cosa succede? Succede che il primo organo del corpo di queste persone che si lamenta è la schiena. Questo perché magari viene strapazzato in una partita di tennis troppo aggressiva su un terreno sintetico rigido, oppure viene aggredito da una corsa troppo lunga con un paio di scarpe magari non indicate. Quindi per fare attività sportiva bisogna avere una preparazione adeguata, bisogna scegliere l'attività sportiva adeguata per se stessi e soprattutto partire gradualmente, perché sennò si va incontro a problemi anche seri, problemi discali, quindi problemi di tipo ernia del disco, che poi sono problemi che possono anche richiedere un intervento chirurgico. Allora, per evitare di diventare Ughini, che cosa dobbiamo fare? Quando lei mi dice dobbiamo scegliere l'attività fisica rispettosa un po' della nostra ritmo di vita, ma anche del nostro tono muscolare, di come siamo fatti. Certo. Dove ci buttiamo? E poi facciamo un piccolo focus su chi col mal di schiena, sì, si confronta, non dico quotidianamente, ma con una certa frequenza, e che naturalmente, certo, via SMS vi dicono, mi chiede perché devo muovermi e, chiaro, che cosa posso fare. Allora, innanzitutto non riduciamoci a fare attività sportiva solo al weekend. Dobbiamo trovare il tempo, magari anche un'ora o due ore nella nostra settimana, da dedicare a semplici esercizi fatti magari al tappeto, di stretching, di rinforzo muscolare, oppure a delle camminate. Non è difficile camminare, basta fare una scelta, basta decidere di andare al lavoro, per esempio, se naturalmente la distanza lo consente, a piedi piuttosto che in macchina, sì, o coi mezzi pubblici. Questo già ci porta avanti, ci permette di avere un condizionamento costante del nostro organismo e permette ai nostri muscoli di rimanere attivi. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che quando poi saremo costretti seduti in macchina o alla nostra postazione di lavoro, i nostri muscoli risponderanno meglio e quindi ci permetteranno di mantenere una postura migliore, stando seduti oppure stando in piedi al lavoro. Per chi invece ha mal di schiena, che consigli possiamo dare? Allora, intanto, per chi ha mal di schiena, come dicevo prima, è importante inquadrare il tipo di mal di schiena. Se è un mal di schiena, tra virgolette, banale, vale a dire un mal di schiena tensivo, posturale, si possono mettere in atto tutti quei presidi che ci permettono di migliorare questo mal di schiena, vale a dire rivolgerci a un esperto che ci dà dei consigli su determinati esercizi da svolgere, molto semplici. Magari bastano 15-20 minuti al mattino per risolvere un mal di schiena che ci affligge da parecchio tempo. E poi dobbiamo affrontare il problema della nostra posizione al lavoro, quindi la postazione di lavoro. La postazione di lavoro, questo è molto importante, certo, perché il nemico numero uno, non so se uno, due o tre, insomma uno dei nemici della postura e della nostra schiena è proprio il computer. Perfetto, il computer ci costringe ad avere una posizione fissa davanti a lui e ci costringe a guardarlo per tutta la giornata. Allora, innanzitutto dobbiamo scegliere bene la posizione di questo computer. Noi dobbiamo avere il monitor del computer all'altezza dei nostri occhi e quindi evitare magari di lavorare sui laptop, sui computer portatili, sì, se possibile. Perché tiriamo giù la testa e ci costringe questo a mantenere la flessione del capo con ripercussioni a livello cervicale e dorsale. Un'altra cosa è sistemare bene la sedia, prendere in considerazione la sedia su cui ci sediamo, deve essere una sedia ad un'altezza tale da permetterci di avere le ginocchia flesse a 90 gradi, sì, deve avere una sorta di schienale che ci aiuta a sostenere il tratto lombare. Quindi dobbiamo ben appoggiarci allo schienale e non appoggiarci in punta alla sedia come faccio io. Ma in punta alla sedia è bene andarci ogni tanto, vale a dire è bene cambiare posizione. La cosa importante da fare è avere per esempio delle rotelle sotto la sedia per evitare di quando abbiamo bisogno di afferrare un oggetto che sta alla nostra destra o alla nostra sinistra, evitare di fare il movimento di torsione del tronco, ma girare sulle rotelle e quindi afferrarlo o guardarlo di fronte. Questo è fondamentale. Vede. Proprio per evitare sollecitazioni continue di taglio a livello della punto strategico della nostra schiena, che è il tratto lombare basso. E poi abbiamo le braccia. E poi le braccia. Naturalmente le braccia le dobbiamo usare. Dobbiamo usarle per scaricare utilizzando i braccioli, se li abbiamo, e spero di sì, della nostra sedia. Sì. Oppure spostandoci in avanti in punta di sedia, come diceva lei prima, per appoggiare i nostri gomiti sul tavolo e quindi fare una sorta di stiramento, di stretching della nostra colonna per pochi secondi e poi rimetterci nella posizione originale. Un po' quello che suggeriva Benedetta Spada. Perfetto. La cosa importante è cambiare spesso posizione, ma soprattutto evitare di stare seduti per più di un'ora. E quindi dopo un'ora bisogna alzarsi in piedi, fare un piccolo giro e ritornare seduti. E vado ad Aldo, dalla provincia di Fermo. Aldo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Lei è fermo o in movimento? No, adesso sono fermo. Io passo molte ore seduto in macchina per lavoro. Sì. E da 7-8 mesi sento al fondo schiena, dalla parte sinistra, un dolore. Un dolore abbastanza forte. Ma lei dice fondo schiena vuol dire una chiappetta destro-sinistra o vuol dire prima la parte finale della schiena? La parte finale della schiena. Ok. Che cosa può fare il nostro Aldo? È molto probabile che questo sia una disfunzione di una parte molto sensibile della nostra schiena che si chiama articolazione sacroiliaca ed è la giunzione tra l'ala iliaca, che è la parte del bacino, con la parte centrale del rachide. Questa articolazione sacroiliaca è molto suscettibile di una stazione seduta prolungata, e quindi gli accorgimenti che io suggerisco ad Aldo sono questi. Intanto vedere un po' di ammorbidire la seduta, quindi con un cuscino che non sia eccessivamente morbido ma che ammorbidisca un po' la seduta. Poi regolerei un po' l'altezza di questo sedile. Il sedile deve essere abbastanza alto e deve essere tirato vicino al volante. Sì. E poi ad ultimo cercare di trovare un sostegno lombare. In commercio esistono dei cuscini lombari, sì, che sono dei piccoli cuscinetti che sono dotati di un elastico che passa intorno allo schienale, che possono aiutarci a sostenere il perché rachide. Riempiono quel perché riescono, vuoto riempiono, che, esattamente. E quindi la nostra schiena si appoggia e respira. Essere e benessere. In piedi o seduti, vogliamo, dottor Melegatti, occuparci anche di chi sta ore e ore in piedi? Un ascoltatore mi scrive: faccio il pasticcere, tante ore in piedi, consigli per la schiena, ma penso ad esempio alle commesse. Certamente. Il nostro Giulio, pasticcere, sicuramente non porterà i tacchi, ma le commesse, lo sappiamo, spesso devono sfoggiare questi tacchi che rendono bella la gamba, ma alla fine della giornata, a parte i piedi, ma la schiena è a pezzi. La schiena ne risente. In effetti il tacco alto, la scarpa elegante che molto spesso è richiesta a queste ragazze può provocare dei problemi. Anche chi è diversamente ragazza. Certamente, sì. Naturalmente. possono creare dei problemi proprio a livello del tratto lombare basso e spingendo la iperlordosi, quindi l'incurvatura viene il sedere in fuori praticamente. Col sedere in fuori, questo alla lunga comporta veramente un problema di stress a livello di questo, di questa regione del rachide lombare. Quindi i consigli sono quelli di intanto alternare la posizione, se possibile la posizione in piedi alla posizione seduta, oppure forse questo più facile, cercare un piccolo rialzo nel posto di lavoro e appoggiare e alternare l'appoggio di un piede con l'altro piede spesso. Questo perché un piede, un ginocchio flesso alternato crea proprio la diminuzione dello stress a livello, certo, del rachide lombare. Come se volessimo salire su una scalina. Esatto, no? Però non saliamo, appoggiamo il piede, rimaniamo qualche secondo e cambiamo piede. Un po' di riposo, un po' di relax. Andiamo da Marcello che ci chiama da Roma. Buongiorno Marcello, benvenuto a lei. Buongiorno. Allora, parole sante quelle del professore, tutti i consigli dati. Io sono un personal trainer, massoterapista e spesso ho a che fare con mal di schiena. E infinite le sono le schiene, infinite le problematiche, ma una cosa che io ho visto, che ho portato a prevenire e a curare in qualche caso qualche mal di schiena leggero, è stata sì la camminata, ma io ho aggiunto questa frase negli anni: camminare fa bene, ma camminare bene fa meglio, perché spesso si vede persone camminare con le schiene curve, con i piedi storti, e qui anche l'educazione al camminare è importante. La camminata in Nordic Walking, la camminata con i bastoncini, che è una disciplina che ho abbracciato da qualche anno e con il supporto dei bastoncini usati bene, mi raccomando, usati bene, perché questa cosa è fondamentale. Dobbiamo farcelo insegnare da qualcuno, però Marcello. Si farlo con un esperto, perché mette in movimento tutta la parte superiore del corpo con una mobilizzazione della colonna vertebrale, per cui il rollamento dei dischi intervertebrali, con tutto un lavoro muscolare completo, e va a riequilibrare quelle piccole problematiche di postura date dagli errori posturali della giornata in modo naturale, non costoso, perché c'è il costo, no, perché possiamo all'aria aperta. Però ho visto che molte piccole problematiche si risolvono, si possono prevenire. Ahimè, io faccio una critica a una popolazione che preferisce curare piuttosto che prevenire. Prevenire con una Dobbiamo assolutamente prevenire. Grazie Marcello del suo consiglio, dottor Melegatti. Consiglio assolutamente opportuno, soprattutto per persone che già soffrono di mal di schiena e persone che non vogliono rinunciare alle loro camminate magari in montagna, e quindi l'utilizzo dei bastoni soprattutto in montagna è fondamentale. Ma a volte non è il computer, non è il materasso e neanche il modo in cui magari camminiamo, la schiena a volte duole perché è carica di impegni, di pensieri, sì, perché si pensa anche con la schiena. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Sara Viola, medico e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa Viola. Buongiorno a tutti. Si parla di sindrome di Atlante, tutti i carichi che ce li sobbarchiamo, una cosa abbastanza femminile, non me ne vogliono i nostri ascoltatori, ma noi siamo abbastanza capaci, no, di caricarci tutto sulla schiena. E poi perché non abbiamo invece, al contrario, cara Nicoletta, il senso della misura, quindi non sappiamo ogni tanto scaricare qualche peso e delegare a qualcun altro, e la schiena è uno dei luoghi dove la mente e il corpo si incontrano più intensamente e tenacemente, per cui tutte le tensioni insieme al sovraccarico di lavoro, diciamo meccanico, tutte le tensioni vanno ad accumularsi nelle varie zone della schiena, dal rachide cervicale a più giù verso la zona lombare, simbolicamente, quindi sia le emozioni che i pesi fisici della vita si riuniscono in quest'area del nostro corpo. E una curiosità, spesso il mal di schiena è anche relativo a quell'aggressività che noi non sfoghiamo. Detta molto esplicitamente, anziché prendere a cazzotti qualcuno, teniamo tutto dentro e accumuliamo aggressività proprio nella zona muscolare delle docce vertebrali della schiena. Meglio o peggio? Peggio per noi, meglio per chi vorremmo colpire. Direi che la mediazione aiuta sempre. Dovremmo fare attività fisica, soprattutto un'attività di scarico quando è consentito dalle condizioni chiaramente muscoloscheletriche e poi imparare a liberare le emozioni. Ci sono tanti modi per liberare le emozioni, lo yoga per esempio, tante forme di rilassamento, poi ognuno ha la propria, anche cantare e ballare fa benissimo per liberare le emozioni e trasformare le emozioni negative e l'aggressività per esempio in emozioni positive. E grazie alla dottoressa Sara Viola per essere stata con noi. E a proposito di yoga, sul nostro Daily Lab, vi ricordate di andarlo a consultare quotidianamente, c'è proprio un esercizio per la schiena suggerita dalla nostra maestra di yoga Lisetta Landoni, che ci, se voi andate sul Daily Lab lo vedete, è una posizione molto semplice, ci si mette supini con le mani, con i pugni sull'osso pubico e si stendono le gambe, perché dottor Melegatti ha ormai dimostrato che yoga e stretching salvano la schiena. Sono d'accordo. Quindi possiamo assolutamente dedicare qualche minuto ogni giorno anche, certo, ad allungarci, la famosa posizione del gatto, a stiracchiarci, perché la schiena migliora. Assolutamente sì, è un consiglio ottimo. Quindi camminate, sorridete e stiracchiatevi. Buona giornata da Nicoletta Carbone, grazie al dottor Melegatti, a Laura Vanossi in redazione, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Vi ricordo il nostro profilo Facebook, molti di voi ci hanno scritto, e il, come sempre, il nostro Daily Lab. Vi aspetto domani. Essere e benessere.